falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Beh, questa per me è una puntata un po' particolare. Immaginatemi più sorridente del solito, ma con anche molta commozione e un po' di nostalgia. Chi ha visto Sanremo mi ha visto tornare sul palco per cantare una canzone dedicata a tre grandi uomini dello spettacolo. Una era Enzo Iannacci, uno Giorgio Gaber, il terzo è un comico astigiano, ma è un comico che ha fatto anche il cantante, il pilota di rally, il pittore e soprattutto lo scrittore. Se ne avesse avuto il tempo avrebbe fatto sicuramente qualcos'altro. Tutte queste persone rispondono al nome di Giorgio Faletti. Io lo devo dire in sincera verità, Roma mi piace. Cosa mi piace a me? Roma mi piace, uno dice Roma, a me mi piace. Uno dice Roma, mi piace, guarda. Prova a dire Roma. Roma. Mi piace, non c'è niente da fare a Roma con la gente, i vigili, cioè anche tutti i monumenti. Beh, Giorgio Faletti è di Asti e si sente soprattutto in questo che vi abbiamo fatto sentire, che è stato uno dei suoi primi provini. Giorgio non ha mai fatto nulla per nascondere il suo accento, anzi lo ha esasperato nelle sue prime esibizioni di cabaret, perché gli è servito per caratterizzare meglio alcuni suoi personaggi. Faletti è nato nel 1950 e a 20 anni si trova a frequentare i locali di cabaret e soprattutto il locale più famoso di tutti, quello che è stato il trampolino di lancio della comicità italiana, quello che da Radio 24 vediamo dalle nostre finestre, lo storico Derby di Milano. Soprattutto mi ricordo un grande divertimento, un grande entusiasmo, una grande voglia di fare, cioè ci siamo trovati per una combinazione astrale e... ed eravamo una serie di ragazzi ansiosi di dimostrare al mondo, ma soprattutto a se stessi, di possedere un po' di talento, ecco. Bisio, Di Francesco, Salvi, ma anche Teocoli, Boldi, Porcaro, Abatantuono, un gruppo di amici che oggi costituisce il meglio della comicità italiana. Il Derby era una palestra impegnativa per ogni comico, perché il pubblico era molto esigente e chi non faceva ridere difficilmente aveva una seconda occasione. Giorgio, che comunque intanto è arrivato a Milano con la sua laurea in giurisprudenza, ma si trova bene su quel palco, riesce a ottenere anche un successo di pubblico che gli permette di passare al gradino successivo, quello della televisione. E a Legnano c'è una televisione privata che si chiama Antenna 3. Faletti nei primi anni 80 viene chiamato a partecipare alla trasmissione Il Guazzabuglio, dove accanto a Teo Teocoli e Massimo Boldi diverte il pubblico nei panni di una suora improbabile, Suor D'Aliso. Vai, sono Suor D'Aliso. Stop. Mi sono schiarita la vocina. Sia preciso, scagli il suo giavellotto dritto dritto su di me. Il regista di questo programma è Beppe Recchia, che condivide il successo con Faletti in questa TV locale lombarda. Giorgio si afferma in questa televisione semplice, genuina, a volte un po' scollacciata, che gioca su doppi sensi e che viene catalogata come nazional popolare. Ma in fondo perché smettere? Così da Antenna 3, che è una vera e propria palestra in cui Faletti perfeziona anche altri suoi personaggi, si arriva alla grande televisione commerciale, Canale 5, su cui va in onda un programma che diventerà storico, Drive In. She wants you, she wants you. Il programma è ideato da un signore che avrà un enorme peso nella storia della televisione commerciale italiana, Antonio Ricci. Il programma è condotto da Ezio Greggio, entra prepotentemente nelle case degli italiani. I personaggi in una esposizione nuova per quei tempi, presentati dai vari comici, sparano battute, tormentoni che entrano nel linguaggio comune dei giovani. C'è Enzo Braschi con il personaggio del Paninaro, Gianfranco D'Angelo, Sergio Vastano con la storia di un improbabile calabrese con ambizioni yuppistiche, c'è Enrico Beruschi, Carlo Pistarino, c'è Francesco Salvi. Insomma, è il meglio della comicità diciamo del nord, da contrapporre alla scuola romana del Bagaglino e a quella napoletana. A dirigere il tutto c'è un vecchio amico di Faletti, Beppe Recchia. Contenitore della comicità fatto da Antonio Ricci, tra donne belle, procaci e che in qualche modo furono uno stereotipo della donna degli anni Ottanta, questo contenitore va in onda per 6 stagioni e Giorgio Faletti c'è sempre, ha modo di presentare al pubblico diversi personaggi. E intanto Suor Daliso, che lui aveva già interpretato e lanciato e collaudato ad Antenna 3. Però, per esempio, se vi capita di andare in provincia di Asti, potreste attraversare un paesino di poco più di 400 anime che si chiama Passerano Marmoreto, come diceva lui, e non vi potrà non venire in mente Carlino, l'adolescente che andava sempre in cerca di donne nude e voleva farsi regalare il giumbotto. E' qui che c'è le donne nude, le donne con le pupe di fuori che... Guarda, non volevo dirvelo, ma ve lo dico, al mio paese mi dicono tutti che sono matto, non è mica vero. Il mio paese si chiama Passerano Marmoreto, che c'ha le cartoline lunghe così, se no non ci sta il nome del paese nella cartolina. Un paese che tutti pensavano che fosse frutto di fantasia, invece esiste veramente. E sempre al drive-in Giorgio Faletti presenta il testimone di Bagnocavallo, che è un predicatore che ammonisce la gente con discorsi sinistramente premonitori ed intimidatori. Ma poi c'è il personaggio più famoso, quello che è rimasto nei cuori della gente e che si è molto divertita guardando le sue esibizioni, un personaggio che segna nel bene e nel male quel periodo della vita di Giorgio Faletti, Vito Catozzo, la guardia giurata che ha la pancia, la barba di 2 giorni, con la pistola in pugno, con un accento pugliese leggero, in realtà molto marcato, e che parla del figlio Oronzo, che ha chiamato Oronzo Adriano Celentano. Guarda, andiamo un lato di fuori, qua non c'è mai. Un giorno o l'altro a me mi scatta la malvasia, quello lo faccio diventare il figlio del Mirdegno, te lo faccio diventare. Io sono qui in centro e respiro il cemento, come dice Celentano da Mondocano. E intanto la criminalità, sai cosa fa? No, tu chiedi, ma a me cosa fa la criminalità? Che cosa fa la criminalità? Dilaga! Confermo ciò sotto i piedi, che io se saprei che ci sarebbero dei delinquenti che verrebbero qui, la vedi questo, con questa a 250 metri, la pallottola ce la metto preciso dentro il nero della pupilla, che vinco pure la quaglia, Mondocano, vinco pure la quaglia. Giorgio Faletti è diventato un comico famoso, però lui non si sente soddisfatto, perché va bene fare il comico, travestirsi, divertirsi, divertire, ma lui sa di poter fare qualcosa di più importante di un varietà televisivo. Giorgio sa di avere ancora tante cose da dire e alla fine questo periodo rimarrà solo una parentesi della sua splendida vita artistica. Il Falco e il Gabbiano. Giorgio Faletti, che archivia il periodo del drive-in che termina nel 1988, continua a fare il comico ancora per 2 anni partecipando ad Emilio con Gaspare e Zuzzurro, poi ancora a Fantastico 11 presentato da Pippo Baudo, però lui si sta già interessando di musica, la sua mente e la sua ispirazione stanno andando altrove. Ma la musica è sempre stata una mia passione, ho anche avuto modo di scrivere recentemente un libro in cui racconto questa storia d'amore fra me e la musica, come si è dipanata nel corso del tempo, da quando ero bambino, in periodo in cui mio padre era una specie di musicista e così, e ai giorni nostri. Devo dire che quando ero ragazzo c'erano delle persone nella mia città, ragazzi come me, che sapevano suonare, e allora questi suonavano in una band, e allora si diceva un complesso. E allora io, pur di star nell'ambiente a respirare quest'area musicale, andavo con loro, li aiutavo a scaricare gli strumenti, facevo queste cose. Quindi Giorgio in quel periodo ha la sensazione di essere un po' inadeguato di fronte ai musicisti, lui che pur di stare nella musica si mette a scaricare degli strumenti. Ma a un certo punto accade un fatto che gli dà la possibilità di colmare questa lacuna, perché a causa di un incidente nel quale si rompe i legamenti, Giorgio, ancora ragazzo, è costretto a un periodo di immobilità forzata, e allora approfitta e impara a suonare la chitarra, e piano piano questa chitarra se la porterà avanti negli anni, e quando comincia a suonare meglio ha anche la possibilità di farsi dare dei consigli da persone che la musica la conoscono molto bene, diventa grande amico di Angelo Branduardi, e allora e tutto comincia a assumere un aspetto completamente diverso. E solo dopo ho scoperto la grossa differenza, me l'ha insegnata un grande amico e un grande personaggio che è Angelo Branduardi, col quale in seguito avrei lavorato, e c'è una grossa differenza fra l'essere musicisti e l'essere musicali. Un musicista è una persona che è messo di fronte a uno strumento o al quale viene messo in mano uno strumento, lo sa suonare e sa sfruttare questo strumento al massimo. Una persona musicale è una persona che è in grado di creare una melodia, e non è necessariamente detto che debba saper suonare uno strumento. Beh, questi sono pensieri, insomma, che Faletti ha espresso molto spesso. La sua fascinazione, la sua voglia di ascoltare musica era sempre in prima fila anche a concerti di suoi colleghi, cioè la musica era veramente, secondo me, il suo amore principale. Dunque, ha un primo approccio discografico nel 1988, non è che ce lo ricordiamo tanto, perché è un mini album dal titolo Colletti Bianchi, che fa colonna sonora a un telefilm che Giorgio interpreta assieme a Franco Oppini. Poi nel 1991 scrive un album, esce con un album che si chiama Disperato ma non serio, il titolo è accattivante e i brani sono tutti scritti da lui, comincia a collaborare con musicisti di buon livello, anzi di alto livello, come Mario Lavezzi e Lucio Fabbri. C'è un singolo che si chiama Ulula, che in radio passa parecchio, e quindi comincia a farsi apprezzare, anche se ancora le cose più belle della sua produzione devono arrivare. Sono trovato a fare queste cose, scrivere queste canzoni quasi inavvertitamente, mi sembrava tutto un regalo del cielo, addirittura troppo facile il fatto che riuscissi a mettere delle note con delle parole attaccate. Eh sì, perché quando uno la musica ce l'ha dentro, anche delle cose che sembrano difficili per gli altri in realtà sono facili, soprattutto all'inizio, quando hai un turbine che ti ruota dentro, quando hai tante cose da raccontare, e Giorgio le aveva, quindi scrive musica, soprattutto testi, e a un certo punto di questa sua bravura si accorge Mina, per la quale lui scrive una canzone dal titolo Traditore. Piano amore, vieni su, Giorgio Faletti scrive per Mina. In realtà lui scrive un sacco di canzoni, ne canta alcune, ma molte le affida ad altri, anche perché forse nei suoi confronti c'è sempre stata un pochino di prevenzione, e quindi alcune cose di Giorgio in realtà le ha dovute affidare ad altri perché temeva di non avere la credibilità per cantarle lui. In uno dei casi è The Show Must Go On, che è una canzone bellissima che lui diede a Milva, che io ho avuto l'onore e il piacere di cantare al Festival di Sanremo, ospite di Milva, ma in realtà io andai, al di là del rispetto e dell'affetto per Milva, andai perché mi aveva chiamato lui, perché andavo a cantare con Milva una canzone di Faletti. Faletti quindi comincia a non essere più solo il comico di Drive-In, Suor D'Aliso, Vito Catozzo. Il pubblico all'inizio è un po' spiazzato perché lui dimostra di essere un bravo autore, così come è stato un bravo comico. Parte una nuova carriera musicale, arriva una prima strana partecipazione al Festival di Sanremo, perché canta in coppia con Orietta Berti. La canzone si chiama Rumba di Tango, è una canzone che ha qualche connotazione da canzone d'autore, ma in realtà è anche una canzone che funziona nelle sale da ballo. Riesce così a mettere in cantina la carriera di comico e a tutti gli effetti comincia a essere considerato un cantante un po' anomalo, magari uno di quelli che sanno farti sorridere, tanto per dire, tipo Gabere, tipo Iannacci. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente. Siamo al Festival di Sanremo del 1994. Giorgio Faletti irrompe come un ciclone in quel festival. Non me ne voglia Leandro Baldi, che vinse, che si portò a casa il premio, ma in realtà tutti sono strabiliati, pubblico e giornalisti, da questa canzone che arriva seconda. Posato il berretto della guardia giurata di Vito Catozzo, ne indossa uno da carabiniere, parla della lotta alla mafia, parla della strage di Capaci. È una canzone toccante, profonda, che va di diritto nel gota della canzone d'autore italiana. È un pugno nello stomaco per intensità, per emozione. Forse c'è qualche indecisione, qualche stonatura sul palco dell'Ariston, ma non ha assolutamente importanza, perché il comico del Drive-In ha dimostrato di saper scrivere di argomenti molto seri, e il pubblico non immagina ancora che la grande avventura della vita di Giorgio Faletti è appena all'inizio. Minchia, signor tenente. Il falco e il gabbiano. Stiamo ripercorrendo la vita di un mio caro amico, ma in realtà io dovrei dire stiamo ripercorrendo le vite, perché è un artista che ha saputo realizzare tutti i suoi progetti. Abbiamo lasciato alle spalle il bravo comico che ci ha fatto divertire a Drive-In, siamo passati attraverso il cantante, il cantautore che arriva secondo a Sanremo, vince il premio della critica e trionfa in quel festival. Adesso si sta profilando all'orizzonte la figura dello scrittore, ed è uno scrittore che sarà capace di vendere a ogni sua uscita milioni di copie dei suoi libri. La scrittura, paradossalmente, credo di averla in qualche modo percorsa fino a quando ero bambino. Ero uno di quei bambini alle elementari che facevano i temi che poi la maestra mandava a leggere in tutta la scuola, a volte anche fuori dalla scuola. E di conseguenza in qualche modo io ho sempre scritto delle storie. Se andiamo poi anche a vedere successivamente i pezzi che io scrivevo per me, quando facevo Drive-In, quando facevo il comico, in determinati casi erano delle piccole storie, cioè avevano un inizio, una fine, uno svolgimento, erano delle piccole sceneggiature, come mi ha detto una volta un mio amico. Giorgio Faletti dimostra di avere una marcia in più sulla scrittura, è veramente una questione di talento, così dai brevi monologhi comici molto divertenti si passa alle canzoni e poi piano piano prende forma il libro. A un certo punto della vita ho cominciato per il mio piacere a scrivere dei racconti, che erano dei racconti brevi, perché in quel momento non avevo il tempo, non avevo neanche la necessità di dedicarmi alla stesura di un romanzo. Temevo di non avere neanche la capacità ed ero certo di non avere l'autodisciplina che la scrittura di un romanzo comporta. Giorgio però in quel periodo ha una, come dire, una fase di vita molto complessa e controversa, perché da un lato è sicuro che non vuole più fare il comico, fa musica però non gli basta, anche perché, come dice lui stesso, sa di non essere un musicista a tutto tondo, però si accorge di avere tante cose da dire e quindi, spinto dal suo naturale istinto creativo, prova a percorrere una strada nuova. Allora ho preso questi racconti che avevo scritto e li ho fatti leggere un mio amico, a sua volta scrittore, e gli ha detto: guarda, sono bellissimi questi racconti, trova un editore. E io sono andato a cercare un editore, molti mi hanno riso in faccia, devo dire, e un editore finalmente mi ha detto: i racconti sono belli, però da un punto di vista, diciamo, commerciale non è appetibile di avere un'opera prima che sia un'antologia di racconti. Se mi porti un romanzo scritto così, io te lo pubblico. E pensate che io ho parlato con quell'editore che gli ha detto così e mi disse che lo aveva fatto per spostare il problema, quasi per togliersi di torno Faletti. Bene, quell'editore lì deve tutto quello che possiede al fatto che Faletti quel romanzo gliel'abbia portato, come ha detto a Silvia Valenti di Fontana d'Arte Magazine. Il terzo signore ha vissuto più vite, ma gli altri gli dicono: noi ti stavamo vicino. Raccontaci dell'assassino ed esci dal silenzio. Ricostruzioni ardite, la fantasia del vero, la forza del pensiero, e il buio lentamente si fa luce e scende la pace. Lasciali fare che stanno parlando, si pare o dischiuso, stanno cantando ed è giorno. Mi piace, rimango, non torno. Siamo nel 2002. Qualche mese dopo quell'incontro con quell'editore, Giorgio Faletti ritorna con un romanzo. Si chiama Io uccido. È un thriller ambientato tra gli studi di una radio, con un disjockey che riceve i messaggi di un serial killer sotto forma di titoli di canzoni. E questo è l'unico contatto che ha la polizia per cercare di fermarlo. Beh, il libro è un successo inaspettato. Chiunque si imbatte nella notizia che Faletti ha scritto un giallo, addirittura un thriller, ci scherza su, credendo che sia la battuta di qualche nuovo personaggio, perché la gente per un po' continua a considerare Faletti un comico. Addirittura a Sanremo era considerato come il comico che canta canzoni serie. Avevamo anche preso in esame l'eventualità di utilizzare uno pseudonimo, perché temevamo che il fatto che io fossi un comico potesse in qualche modo... Invece poi questa cosa ha creato anche un piccolo caso, in positivo e in negativo, perché subito è cominciata tutta una serie di, come dire, caccia al fantasma, di caccia alle streghe. Non è lui che li scrive, glieli scrive l'amico, glieli scrive la moglie, glieli scrive questo, glieli scrive quell'altro. Anche perché poi uno che nella vita ha sempre fatto il creativo non si riesce a capire perché nel momento in cui pubblica un romanzo glielo deve aver scritto un altro. Giorgio Faletti vince la diffidenza della gente, si afferma come uno scrittore vero e proprio, degno di essere chiamato con il suo nome, ma soprattutto come un autore di bestsellers. Però nel 2004 la sua strana vita viene sconvolta ancora una volta da un dramma, perché un ictus lo colpisce proprio poco prima di presiedere a una presentazione del libro. Fortunatamente lui stesso, con molta lucidità, a descrivere i sintomi a chi gli sottopone le prime cure. Si salva, ma questo avvenimento, che non lascia conseguenze fisiche, lascia dentro di lui un segno importante, perché cambia il suo modo di vivere. Impara che la vita è un dono prezioso ma fragile. Impara che la fine di tutto può arrivare in un qualunque momento, senza preavviso. Quindi non bisogna mai rimandare nulla di quello che si vuole fare. Bisogna agire e non esitare a cogliere al volo ogni occasione. Così nel 2004 si replica. È un altro romanzo che ovviamente conferma l'abilità di Faletti nello scrivere libri gialli. Niente di vero tranne gli occhi vende quasi 4 milioni di copie, quindi bissa il successo del primo romanzo. E questo è un dato importante, perché di solito per uno scrittore c'è sempre molta tensione all'uscita del secondo libro. Quando il primo ha avuto un successo strepitoso, spesso è improbabile che questo successo venga replicato in tempi così brevi. Il secondo romanzo è andato bene praticamente quanto il primo, anche se un'opera prima di così eclatante successo è, come dire, contiene un elemento che io non potrò mai più dare ai miei lettori, che è la sorpresa. Una cosa che mi fa molto piacere, ad esempio, è che incontro le persone per strada e mi dico: allora, ma arriva sto romanzo nuovo? Sì, arriva. Per dirvi qual era il successo di Faletti e qual è rimasto come scrittore, mi ricordo una volta che io avevo fatto un romanzo anch'io e stavo promuovendolo attraverso incontri. Mi sembra che io fossi a Bologna, stavo facendo Milano, Bologna, Firenze, Roma, queste cose qua, e ci sentimmo al telefono. Lui stava facendo lo stesso percorso, però stava facendo Sydney, Melbourne, poi avrebbe fatto Tokyo, Osaka, perché i suoi romanzi tra l'altro erano pubblicati in un sacco di nazioni ed erano tradotti in molte lingue. Diventava una leggenda, un cuore leggendario. Legendary hearts haunt me in my sleep. Promises to keep I never should have made. I can't live up to this. I'm good for just a kiss. Not legendary love. Giorgio Faletti il comico, Giorgio Faletti il cantante, Giorgio Faletti lo scrittore, tre carriere tutte e tre coronate dal successo. Alla fine i romanzi scritti saranno 7, da Asti alla conquista del mondo. E non vi ho ancora parlato della quarta carriera di Giorgio Faletti, quella di attore cinematografico. Agosto 1969. 800.000 ragazzi, fra cui il sottoscritto, si radunano in un prato vicino a una fattoria a 80 km da Woodstock, si mettono tutti nudi e praticano il libero amore ascoltando la più bella musica di tutti i tempi. Nudo? Più nudo di tutti. Mia madre era convinta che io fossi in un college a studiare l'inglese. Invece sull'aereo ho conosciuto due ragazze norvegesi, due ragazze con quattro tette, con i due a testa, ovviamente ragazze molto disinibite. Per 3 giorni le ho massacrate, ma le ho massacrate. Antonio. Papà, ma che ti fa le canne? No, stavamo... Ripassando storia contemporanea, il Novecento. Ecco. Quello. Questa è una delle scene più importanti e divertenti del film Notte prima degli esami, diretto da Fausto Brizzi. È un film che esce nel 2006, racconta la storia di alcuni ragazzi, tra cui Nicolas Vaporidis, nei giorni che precedono l'esame di maturità. Sono alle prese con il membro interno della commissione, che è il perfido professor Antonio Martinelli, interpretato da un Giorgio Faletti in forma smagliante, che parte come incubo degli studenti, ma poi a un certo punto, insomma, rivela anche un lato inaspettato del suo carattere. Faletti, con i suoi brillanti occhi azzurri, fulmina con uno sguardo tutti i suoi studenti, ma quello che è più importante, convince la critica e il pubblico sulle sue doti di recitazione. Seguiranno altri film: Cemento armato, Capitan Basilico, dove sono onorato di dire che c'ero anch'io tra gli attori di quel film, e soprattutto Bahia, diretto da Giuseppe Tornatore. Nel 2010 c'è il doppiaggio di uno dei personaggi di Toy Story 3. Insomma, anche nel mondo del cinema Giorgio Faletti lascia il segno. Qualunque cosa faccia, Giorgio Faletti ottiene dei successi, eppure c'è sempre qualcuno, per fortuna molto pochi, che trova qualcosa da criticare nel suo operato. Esce nelle librerie il quarto romanzo, personalmente quello che mi piace di più, Io sono Dio, è di nuovo un successo. C'è qualcuno che comincia a insinuare che il libro non sia tutta farina del suo sacco, che Faletti abbia un ghostwriter, insomma tutte quelle cose che succedono quando hai un successo planetario. Ma siccome Faletti è un uomo di spirito, rispedisce al mittente le accuse con molta eleganza e un pizzico di ironia. Ma io vi ho detto che Faletti è stato anche pilota di rally. Con Giorgio abbiamo fatto il driving, poi ha fatto anche il e c'era però un'altra versione di Giorgio. Ecco, finché Giorgio si mette in testa di fare il comico, diventa un comico stupendo, per cui a cena si ride e rotta, veramente che non se ne può più. Giorgio si mette in testa di diventare pilota di rally e a questo punto scatta proprio, ammazza il Giorgio comico per gli amici inizialmente e diventa pilota di rally. Io ora non so raccontarvi le palle che ci siamo fatti a cena con Giorgio in quelle sere in cui spiegava come andava presa la determinata curva, perché l'ammortizzatore B12 C43, cioè. È da sempre appassionato di corse automobilistiche e infatti Giorgio si cimenta anche come pilota di rally, gareggiando al rally di Monte Carlo. E tutti ricordano di una volta durante la cronoscalata del Nido dell'Aquila in Umbria, in cui ebbe un terribile incidente con la macchina che si capotta più volte. Faletti scrive su Autosprint un articolo dal titolo "Qualcuno volò sul Nido dell'Aquila" e nell'articolo c'è la foto dell'incidente e un'unica frase: "Io, porca vacca". Giorgio se n'è andato per colpa di un tumore a 62 anni. Di lui ci restano molte tracce del suo passaggio: comico, cantante, scrittore, attore, pilota. Tra l'altro era anche un eccellente pittore. Mi piace ricordarmelo con una frase che è questa: ma il coraggio è anche questo, la consapevolezza che l'insuccesso fosse comunque il frutto di un tentativo, che talvolta è meglio perdersi sulla strada di un viaggio impossibile piuttosto che non partire mai. Andata male, Purtroppo prima o poi succede a tutti. Sì, ma quando capita a te però? Vedi Molinari, Luca, l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri. E evidentemente anche Fausto Brizzi è rimasto ispirato dalle parole di Faletti, perché gliele ha fatte pronunciare in un momento chiave di quel film. Mi piace pensare a quello che diceva Giorgio quando gli facevano la classica domanda: come vorresti essere ricordato? Lui diceva: ma mi piacerebbe che dicessero, beh, c'erano i comici, poi c'erano i cantanti, i cantautori, poi c'erano gli scrittori, e poi con la sua faccia da furbetto diceva: e poi c'era anche Giorgio Faletti. Bene, noi di storie ve ne stiamo raccontando tante, storie di persone che in qualche modo hanno saputo cambiare la loro vita con un colpo d'ala, o addirittura, come nel caso di Giorgio Faletti, con parecchi colpi d'ala. Noi vi aspettiamo, vi chiediamo di segnalarci a Il Falco e il Gabbiano chiocciola Radio 24 motivi per parlare di altri personaggi e altre storie. Naturalmente ci potete trovare anche su Facebook, su Twitter, insomma se volete mi trovate. un saluto, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.